Filmbusters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. A intrinseco, oggi registriamo la 22ª puntata. Danilo. È la 21ª. Ma no. Ma tanto nessuno se ne accorge. Punto. Ormai abbiamo sfondato ormai. Danilo. No, no, davvero, saltiamo la numerazione e vediamo se qualcuno se ne accorge. Che burloni. Puntata fantasma. Partiti. E benvenuti alla 22ª puntata. Benvenuti alla 21ª puntata, o alla 22ª, è intrinseco? Di Movie Shelter. Di Movie Shelter, sì. No, no, non lo dobbiamo dire prima che esca il sito. Marras. Puntata 21, io sono al solito Alex Diro, non ho cambiato nickname nel frattempo, e con me ci sono sempre il Monco. Che invece divento Matteo Giamborra da domani. Ok, e c'è anche il coso intrinseco. Lo spaffanculo. Veramente ti volevo chiamare Brumilda, però poi... Non sono un po' distratto, sto seguendo la conferenza di Cosentino. Di Cosentino, stavo dicendo Sorrentino, parliamo di cinema. Anche lui è indagato, no. No, no, Cosentino. Ma ci stanno i sottotitoli o leggi il labiale? Ma che sei? Tu sei meridionale, che parli? Ma senti questo. No, scusa, se parli, a parte quello, sei un terrone pure tu nel sangue. Vabbè, ma io non ho detto ci vuole i sottotitoli. No, io lo dicevo per un altro motivo, fammi spiegare. Spiega. Perché se parli con noi, se ci sta il sonoro, magari vai un po' in confusione, quello intendo. No, è live, non li mettono i sottotitoli. Ah, devo barcamenarmi. Quindi stai immaginando, stai interpretando quando lui gesticola. Sì, tanto avanti da 8 ore. Vabbè, comunque diciamo, una puntata, visto che muore sempre qualcuno, stavolta è un po' più sentita, è morta Mariangela Melato ormai da una settimana, però è morta. Puzza ormai il cadavere. E vabbè, no, madonna mia, che questo lo devo editare perché cioè, non posso lasciarlo. No, no, puzza, ho controllato. Comunque, dedicata a Mariangela Melata, È il peggior elogio funebre di tutti i tempi, mamma mia. Non era voluto. No, vabbè, no, sul serio, dispiace, è una grande attrice. Ha lavorato con la Vermeuler, con Bene, no, signorina Bene lo dico io se permette. Vabbè, ha finito anche la citazione, andiamo avanti. Ieri è morto anche Riccardo Garrone, per metà giornata io ho detto, madonna, quell'attore, e invece era il presidente della Sampdoria, vabbè, ma fa niente. Mettiamo anche lui. Sì. Quello che faceva pure sto Natale se lo siamo levato dalle palle. Ecco, visto. Ecco, vedi? Allora, quindi è doveroso dedicare la puntata a tutti questi morti. E anche a Oshima. È vero. Esatto. Quindi un sacco di persone che se ne sono andate a cui dedichiamo la nostra puntata numero 21 in cui parleremo dei risultati del sondaggio che abbiamo tenuto sulle pagine del nostro blog, ovvero i Filmbusters Movies Awards 2012, e poi parleremo dei due film più importanti usciti questa settimana, ovvero Django Unchained di Tarantino e e Frankenweenie di Tim. Volevo trattenerlo fino a Frankenweenie, ma è stato difficile. Che gente penosa. Io già so che cosa ne pensate, quindi... Però Django è sbagliato, Django è sbagliato? Beh, italiano, è Django. È Django, vabbè, però l'hanno girato... regista americano, e quindi... Va bene, Django, un Kined, allora. Esatto. Siamo lì. La D è muta. Django incatenato. Scatenato. E, sì, vabbè, certo. Allora, passo quindi lo scettro. Vabbè, certo, della... niente. Vabbè. Mamma mia, che intro, ragazzi. Sto subito ignorante retrogrado. Mamma mia. Ma avete bevuto pure voi? No, ho mangiato la mela cotta. Io ho bevuto anche l'acqua della mela cotta, se devo dire. Perché cioè, che fa bene allo stomaco. Mio nonno beveva l'acqua degli asparagi. Madonna, che schifo. Che faceva la verde? Proprio per quello, fa bene per quello, pare, non lo so. Non voglio indagare. Cioè, quindi se fai la pipì di un colore diverso vuol dire che stai bene? No, non lo so, è come quando ascolti tuo nonno che fa la pipì, mi chi fa paura. mai sentito, vabbè. E allora passo lo scettro della conduzione al Monco, che ci annuncia i vincitori dei Filmbusters Movie Awards 2012. Beh, intanto tiriamo, cioè, dai. L'ultima volta che abbiamo registrato abbiamo detto 30.000 visite. Beh, oggi siamo vicini e forse le faremo entro mezzanotte 35.000, eh? Che numeri, che cifre. E chi dobbiamo ringraziare? Noi stessi, non voglio ringraziare nessun altro. Ma ringraziamo anche un po' Frusciante, che ci ha fatto tanta pubblicità, dai. Va bene, grazie Frusciante. Grazie. Però ringraziaci anche tu, va bene. Esatto. Citaci in uno dei tuoi video. Esatto. E allora, hanno votato in, guardo adesso, 101.492 persone. sono numeri incredibili. E un grande successo, insomma. Abbiamo solo 150 mi piace, quindi non so come abbiamo fatto, ma sono numeri incredibili. Wow. E i premi, musichetta. Allora, questa è la prima edizione dei Filmbusters Awards, speriamo che arrivi almeno a due. E, appunto, hanno votato in tantissimi, è stata una festa, sono addirittura presenti qui con noi gran parte dei registi e attori nominati, quindi speriamo di dargli i premi. E, purtroppo sono tutta gente che non è stata candidata. Vabbè. E allora direi di partire come nella scorsa puntata dall'animazione e salire nello stesso ordine. E allora i miei colleghi non sanno nulla, pensate un po', che sorpresa, sarà una sorpresa anche per loro. Dopo che ho detto, poi potete dire ah sì, d'accordo, non d'accordo, eccetera. Miglior film d'animazione, stanno consegnando la busta. Il vincitore è Brave, Ribelle, della Pixar, di Mark Andrews e Brenda Chapman. Buh! Buh, che l'hai candidato? Cosa? chi volevi che vincesse? La collina? Sì, ho quello, ho i pirati da stracazzo, non lo so, non Brave. No, vabbè, meglio questo che Wreck-It Ralph, però... È stato un testa a testa, Bastardi. All'inizio la collina dei papaveri ha fatta da padrona, ma poi niente, l'hanno sorpassati due Pixar che se la sono giocata, alla fine ha vinto Brave, pirati con distacco, ma non ha sfigurato, è piaciuto. Beh, penso che poi anche per l'arte categoria sarà così, ma c'entri molto anche la potenza distributiva, perché comunque Brave e Wreck-It Ralph l'hanno messo più o meno tutti quanti. Collina dei papaveri e pirati. Cioè io Pirati l'ho recuperato in Blu-ray, ma altrimenti non penso che non passo nemmeno nelle sale da me, quindi magari c'entra molto anche questo, ecco. Sicuramente, Miyazaki credo neanche sia arrivato al cinema. È un giorno solo, ti ricordi? Quel giorno. Appunto, è vero, sì. La one shot, no, la quindi one shot proprio... era per... No, la one shot era per Il Castello del Cielo. No, anche per questo, nonostante sia anche nuovo. Per questo? Sì. Ah, e allora non ricordavo bene. Beh, allora. Vabbè, però c'è anche da fare il ragionamento. Diciamo che il vincitore morale della collina dei papaveri. Sì, però i pirati è arrivato anche adesso su Sky, quindi è già arrivato? Sì, mi sembra di sì. Quindi uno lo vede adesso quando si sta per votare, quindi insomma. Ma sì. Vabbè. La gente guarda solo i Pixar, si sa. Ma Ah sì, dai, passiamo alla prossima categoria, dai. Allora, miglior colonna sonora. E Cabusta vince e ha stravinto fin dal primo momento Moonrise Kingdom. Batte di comunque un buon margine Skyfall. Tutto, mamma mia. Io stratifavo per i Muppets. Mi piace molto quella, ma no. Arrivato terzo, ma con un distacco enorme. I Muppets è un altro film che abbiamo visto in 10, pensa. Probabile, sì. Però, vabbè, anche un premio per Desplat che ha musicato 8 milioni di film quest'anno. E appunto, così è facile vincere, stronzo. È un premio cumulativo. Sì. Non lo sai, però mi aspettavo Skyfall, perché pure con la vittoria di Adele, ai Golden Globes, magari riusciva a trainare un po' di voti anche da noi, invece... La scampata, il film di Wes Anderson, va bene, dai. Ha tentato di fare una rimontona, ma non c'è riuscito. Ma allora, tanto il distacco? Non, sì, ma non... Se la sono giocata solo loro, però. Comunque il distacco sì, c'è stato. E adesso, miglior fotografia. Vince, senza sorpresa, Skyfall questa volta. No. Con, vai, dillo da solo. Non c'è neanche Billy Crystal, non va bene. Con dietro, con un buon distacco, ma tutti lì appaiati, Holy Motors. C'era una volta in Anatolia, stranamente, ha preso più voti di Holy Motors, incredibile. E la Talpa, che è arrivato secondo. Ma vabbè, dai, allora, io ti favo per lui, si sa. Per la Talpa ti fa. Diamo un nome alle cose, vince Roger Deakins per Skyfall. Ecco, va subito a smerdarmi. A sciorinare conoscenze che non ho. Miglior sceneggiatura, qui c'è stata la battaglia più poderosa, fino all'ultimo è stato il bilico proprio totale. Vince con un solo voto di vantaggio Killer Joe di Tracy Letts. Questo lo tifavo. No, questo l'ho candidato e lo tifavo, no, scherzavo. La battuta in volata, l'arte di vincere, Argo. Gli altri, Paradiso Amaro e Rubik's Park, sono di stacco enorme. Questi tre proprio fino all'ultimo, è stata una bella gara. Sono contento anch'io, moltissimo. Sì, l'arte di vincere meritava, però è bello, una vittoria diversa, bello, bello. Io sono contento per la vittoria diversa, però ancora non riesco a vedermelo, quindi... Però ce l'ho lì, è pronto. Devo fare una bella infornata di film di Friedkin, quindi... Prima o poi lo vedrò. Friedkin è uguale, è italiano. Sì, va bene. La migliore attrice, abbiamo detto, il premio Daria Nicolodi. E lo faremo dire a Jack Palance. No, vabbè, dai, è già ubriaco e poi sbaglia pure questo. Vince con un notevole distacco, ma neanche poi tanto, e in grandissima rimonta, Marion Cotillard con Piccole bugie tra amici, The Dark Knight Rises e Un sapore di ruggine e ossa, anzi, soprattutto per questo. Eh sì, bella, brava, bella e brava e bella. Ha vinto lo spettacolo, dai. Sì, ha battuto, comunque all'inizio c'era la parte della leonessa Emanuele Riva, incredibile, è stata prima per un bel po', e alla fine quasi è stata sorpassata dalla Chastain addirittura, però, ecco. Invece la coreana la sono cagata in due, ma anche lì, chi l'ha visto, pietà, in quattro. Sì, appunto. Mi spiace. Va bene. E va bene, adesso invece miglior attore, il premio Alberto Tomba, lo vince, e qui siete stati parecchio banali, ha vinto, ma con un distacco enorme, Michael Fassbender, per Shane, Prometheus, Hunger e Knockout, tutto l'ha fatto. No, pure Knockout, soprattutto per questa l'ha vinto. E qui questa l'ha vista in due, probabilmente. Vabbè, dai, è comunque un bravo attore, dai. Sì, ecco, però, insomma. Sono dimenticato di candidare Gina Carano per Knockout, porca vacca, vabbè, troppo tardi. Però, tieni a mente che la Van l'avremmo visto solo noi, comunque. È appunto, è solo un festival. Infatti è arrivato ultimo. Normale. No, però è arrivato a pari merito con Arena, Tosar e Trintignant, tutti lì. Solo Holman è stato un po' più in su, ma Fassbender proprio niente, tra i nani è camminato. Vabbè, quello che ha fatto film che hanno visto tutti, gli altri erano relegati a una sala a regione, quando andava bene. E adesso, per invece di dire subito al regista, facciamo il peggior film, perché è stato molto divertente. Non c'è stata gara. Il primo giorno aveva già un distacco che nessuno sarebbe riuscito a colmare. Dracula 3D si conferma peggior film. Un distacco imbarazzante. Dai, diccelo, quanto distacco? Quantifica in percentuale, più o meno, pure approssimativa. Allora, 40% in più degli anni. Il secondo. Porca praticamente metà dei voti sono andati, no, molto più della metà dei voti sono andati a lui. Eh beh, però cosa avevamo messo? Comunque, Paura 3D, sì, qualcuno l'ha visto. L'arrivo di Wang, no, Detachment non l'ha visto quasi nessuno, quindi vabbè, era meritatissimo, è vero, Resident Evil, giusto. E sì, dai, effetti, dici un po' i secondi, terzi. Arriva secondo con un distacco enorme, Resident Evil Retribution, poi Paura 3D e a pari merito ultimi, ma in questo caso primi, perché sono film decenti, allora l'arrivo di Wang e Detachment. Madonna, il meno peggio è Detachment, pensa un po'. Sì. Arrivo di Wang. Anche vero. Peccato che non l'hanno potuto vedere, mi spiace davvero. Beh, siamo contenti però per Dario Argento, gli diamo per insomma come altro premio anche il peggior regista dell'anno, perché è giusto. Se lo merita. E quindi invece miglior regista dell'anno, ecco, la busta vince, e ha vinto dal primo minuto anche lui, con un notevole distacco, Wes Anderson con Moonrise Kingdom. Ecco, il boo. Boo! No, applausi. Applausi. Perché il boo? Così, la scelta. Io non ricordo neanche chi erano i candidati. Le Oscar Axe, allora, poi? È arrivato secondo con la metà dei voti Thomas Alfredson, terzo Matteo Garrone, sorpresa, e poi Haneke e ultimo Carà. E vabbè, ora hanno visto tempo. Alfredson secondo, però sono contento, quindi a qualcuno è piaciuto, ok. E quindi, momento clou della serata, tardo pomeriggio, mattina, beh, dipende da quando ascoltate. Miglior film dell'anno, ripetiamo velocissimamente i candidati, erano Amour di Haneke, Bad Time di Balagueró, Cosmopolis di David Cronenberg, Holy Motors di Carà, Moonrise Kingdom di Wes Anderson, Paradiso Amaro di Alexander Payne, Polo alle prugne di Marjanissa Trapì e Vincent Paronneau, Reality di Matteo Garrone, La Talpa di Thomas Anderson e un sapore di ruggine e ossa di Jacques Audiard. Vince con un notevole distacco e secondo, almeno a mio modo di vedere, con grandissima sorpresa, Cosmopolis di David Cronenberg. Enorme distacco anche. Che bomba, non me l'aspettavo. Tifavo un po' per lui perché vabbè, ma assurdo, ma chi dov'era questa gente? È Federico Frusciante che è stato a cliccare 10.000 volte sulle votazioni, avrà votato 20 volte, grande. Madonna, un fu. No, devo dire che su Twitter abbiamo messo il dito, anzi io personalmente facendo un po' di pubblicità, nel Robert Pattinson Fans Club, credo che abbia contato quello. Ah, eh. Allora, ma scusa, ma quel tipo di spettatore ha visto Cosmopolis e lo ha votato nonostante tutto, è incredibile. Sì, mi ha davvero sorpreso. Comunque, primo, diciamo anche il podio. Moonrise Kingdom secondo, ma con tanto distacco. E Amour riesce ad arrivare terzo in volata, perché ha fatto una bella rimontona. Si vede che la gente è riuscita a reperirlo adesso. E invece, ultimissimi, un sapore di ruggine e ossa, Bad Time e Pollo alle prugne. Proprio ultimi. Madonna. Quindi Holy Motors qualche voto l'ha preso? Sì, sì, è arrivato sopra questi tre e sopra anche a Paradiso Amaro, però La Talpa non l'ha superato. Madonna, abbiamo candidato Paradiso Amaro. Cioè. Sì, non passa. E La Talpa no, non l'avevo candidato, madonna. Sì. Sì, sì. No, perché adesso hai detto l'ordine, non l'ho risentito. Sì, parli senza sapere, parli. È arrivato quarto La Talpa. Ho sentito gli altri, ma questo no. Vabbè, comunque bravo Cronenberg, siamo come Cannes, noi siamo accontentiamo il pubblico di nicchia, i registi de sé, madonna. I fans club degli attori. Sì, sì, ecco. Guarda che non vinceva un premio Cronenberg. Ma se noi se lo chiamiamo viene anche a ritirarlo. No, glielo faccio, gli disegno un cartoncino, basta che viene. Visto che le nostre registrazioni sono fatte su Skype, lo chiamiamo su Skype, lo diamo a voce. è l'unica. Ok. Ma è David.Cronenberg 82 e Skype. No, Skype non esiste. Vabbè. È giovane, però. E glielo daremo, glielo daremo. Bravo David, bravo Robert più che altro. Direi quindi che possiamo passare ai due film della settimana, i due film più importanti, perché in realtà ne sono usciti 6, 7, 8, barra 9, non ricordo quanti, ma un po' perché ne avevamo già parlato come nel caso del Re di Rec, un po' perché la distribuzione al solito è stata balorda come nel caso del nuovo film di Assé, che con le pronunce francesi? Assaya. La distribuzione del suo nuovo film è stata abbastanza peregrina. Qual è il titolo italiano? Non me lo ricordo. Fatto sta che parleremo quindi di due film, Django Unchained di Quentin Tarantino e Frankenweenie di Tim Burton. Iniziamo proprio da quest'ultimo. Ho scritto la recensione per il blog, sicuramente l'avrete letta sulle nostre pagine. Vincent è un ragazzino introverso, un po' come tutti i protagonisti del cinema di Burton, che preferisce altre attività a quelle a cui di solito piacciono agli adolescenti, come lo sport. E lui invece preferisce la scienza, preferisce lo studio, preferisce realizzare dei corti animati con il proprio cagnolino Sparky, che è il suo migliore amico. Durante una partita di baseball succede il patatrack, il povero Sparky finisce sotto una macchina. Sembra strano dirlo che succede durante una partita di baseball tutto questo, ma fidatevi, è coerente. E insomma il bambino ovviamente si dispera. Durante una lezione del professore di scienze scopre che comunque i tessuti di un corpo rimangono collegati al cervello anche dopo la morte, e che quindi attraverso l'elettricità si può provare a riportare in vita una creatura, e quindi decide di fare questo esperimento sul tetto della propria casa. Riporta in vita Sparky. Tuttavia questo esperimento, visto che si avvicina alla giornata della scienza, attira le attenzioni dei suoi compagni di classe, che sono abbastanza ambiziosi, tutti vengono a conoscenza di questa tecnica e provano a riportare in vita i loro animali con, potete immaginare le conseguenze del caso anche vedendo solo il trailer, insomma. Frankenweenie quindi è il nuovo film di Tim Burton, finalmente un Tim Burton che si scrolla di dosso le cose peggiori del suo cinema recente, ovvero un'estetica abbastanza ridondante e pacchiana. Qui invece si parla di un film in stop motion, animazione in stop motion in bianco e nero. Il plot è una rimasticatura, o meglio un lavoro di aggiunta sullo script elementare del corto Frankenweenie che realizzò per la Disney agli albori della sua carriera. Io il corto non l'ho visto, voi invece mi dite che l'avete visto il corto originale, vero? Sì. Quindi magari orario l'hanno fatto addirittura, ma penso che si trovi facilmente anche su YouTube. Sì, sicuramente. Quindi magari poi sarete voi a fare un confronto con il corto originale. Per quanto mi riguarda, trovo che sia è un film che mi è piaciuto perché comunque si allontana dalla pacchianeria dell'ultimo cinema di Burton, e quindi dai due pessimi Dark Shadows e Alice in Wonderland, e perché è un film che è girato all'insegna della semplicità. Allora, innanzitutto trovo che la scelta del bianco e nero esalti anche la qualità della stop motion, le nervature sui pupazzi, le imperfezioni, le impronte digitali che si vedono su questa plastilina. Quindi l'ho trovata una scelta molto azzeccata. Ho trovato azzeccatissime ovviamente tutte le citazioni al cinema horror degli anni 30, alla Universal Pictures, tutti i rimandi comunque al mito di Frankenstein, che è una costante un po' del cinema di Tim Burton, se pensiamo ad esempio al fantastico Edward Mani di Forbice, e perché l'ho trovato un film che questa semplicità, diciamo, si traduce in una verità di sentimenti e di reazioni. Insomma, io non so se voi avete un animale domestico, leggevo sui forum di come il rapporto tra Sparky e Vincent sia sembrato approssimativo, ma in fondo un animale domestico lo sia, ma non perché fa cose straordinarie, semplicemente perché è quello che è. In questo caso Sparky sembra anche un animale abbastanza stupidino, ecco, passare giornate in cortile a giocare con la palla e a strusciare il musetto con la sua dolce vicina di casa. E secondo me, insomma, è appunto un film che non molto delicato, molto dolce. Il rapporto tra Sparky e Vincent forse è esagerato paragonarlo ai primi 10 minuti di Up, però per quanto mi riguarda, comunque dal punto di vista emozionale, avendo io avuto un animale domestico, insomma, mi hanno emozionato molto questi minuti, questo rapporto così giocato molto sulla semplicità delle cose, ecco. Deliziosa la parte finale con i mostri dei vari compagni di classe, deliziosi anche i compagni di classe, i personaggi quindi secondari della pellicola. Ho letto che molti criticavano proprio il fatto che fossero personaggi superficiali, ma in fondo alla fine sono caratteri, sono dei tipi. Non vedo perché debbano avere una caratterizzazione più profonda di quella che hanno nel film, insomma. Tra l'altro si parla di un film di 80 minuti e quindi non lo so. Si è criticato Tarantino perché ha fatto un film troppo lungo, poi si critica Burton perché ne ha fatto uno troppo corto, decidetevi ragazzi, dai. L'unica cosa che non mi è piaciuta è un po' il finale, che comunque preferivo fosse un po' più cinico. Certo, non bisogna perdere di vista il fatto che si parla di un film d'animazione e che quindi il target di riferimento è un target adolescenziale, preadolescenziale. Però effettivamente c'è questa presa di coscienza del protagonista. Faccio uno spoiler, va, magari saltate di un minuto o due questa parte, però insomma c'è il protagonista che accetta la morte del suo animale e non si capisce perché, insomma, questo animale torna in vita. È una cosa che secondo me non funziona, è una cosa abbastanza stucchevole e melenza, quindi non mi è piaciuto. E lo trovo anche, diciamo, disarmonico con l'evoluzione del personaggio. Per concludere il mio intervento, diciamo che è un bicchiere pieno a tre quarti, ecco, nel senso che comunque io apprezzo molto Burton, sono un fan del suo cinema e magari dal regista che si ama si vuole sempre qualcosa di nuovo, ecco. Questo in fondo è un ritorno al passato. È un tentativo forse estremo di Burton di recuperare un tocco magico che sembrava aver perso con gli ultimi film. Forse anche lui ad ammetterlo, l'ho scritto anche nella recensione tramite le parole di un suo personaggio, che forse gli ultimi film sono stati fatti senza cuore ma solo puntando al guadagno, al mero guadagno economico. Però insomma, proprio alla luce di questo, alla luce del fatto che sembra un regista ormai finito, poter constatare che è ancora vivo e vegeto, per me comunque è una grande gioia, ed è per questo che, anche per questo, insomma, ho promosso il film. Diciamo, non a pieni voti, però comunque lo ritengo un gran bel film, degno anche di far parte dei migliori film di Burton. Ecco, nella mia classifica personale sta nella top 10. Passo la parola, magari, non lo so, chi vuole, visto che intrinseco immagino introdurrà Django, facciamo parlare prima lui, ok? Sì, non ho sentito praticamente nulla di quello che hai detto, ma ho letto la recensione, quindi vabbè, più o meno ho capito che ti è piaciuto. Sì. Io invece, come molti altri, tantissimi, ancora oggi mi sono chiesto perché ha fatto questo lungometraggio che, come sappiamo tutti, è un corto di ormai quasi 30 anni. E vedendo il film mi sono reso conto, diciamo che il Frankenweenie 3D, così lo distingo dal Frankenweenie corto, è una metafora della carriera di Burton. La sua carriera è morta, è stata tirata sotto da una macchina, da un treno, è stata fatta a pezzi, distrutta, e lui, come Victor, tenta in un modo infantile di riportare in vita la sua carriera, e lo fa tornando al passato. Già Dark Shadow era stata questa mossa di tornare agli anni 90, agli 80-90, insomma i suoi inizi, questo è ancora peggio. Cioè, prima di tutto il corto era perfetto, non riuscì a trovargli i difetti e non gliele trovo ancora adesso, è molto bello, dura sulla mezz'oretta e c'è tutto quello che c'è bisogno. E ti viene proprio da dire, se lo allungavi di un minuto solo veniva fuori una stronzata. E in effetti anche Winnie è gran parte, cioè il suo grande difetto è questo, che è allungato, è un brodo allungatissimo. Ci sono dei tempi morti poderosi, un manuale di tempi morti. Soprattutto nella prima parte, quando fanno vedere Victor come si muove, com'è la sua vita di tutti i giorni. Insomma, sembra che è appunto una storia corta, allungatissima, mi ha veramente annoiato in alcune parti, nonostante sia un film di animazione, credo che non mi sia mai successo. E poi l'unica cosa nuova è, non so se ne hai parlato, non so se mi state sentendo, è appunto quello che viene fuori, i suoi compagni di classe, quello che loro riescono a tirar fuori, questi, vabbè, non dico altro, comunque è l'unica cosa in più, e soprattutto inserita a forza, perché la storia arriva fino a un certo punto, poi c'è questa parentesi, si chiude la parentesi e c'è il finale che è identico a quello del corto. Detto questo, non è un brutto film, però se hai visto il corto non è niente di che. Anche se non avessi visto il corto, comunque i suoi difetti sono palesi, ribadisco i tempi morti e anche un'animazione che è molto buona nei personaggi secondari. Sono tutti ben caratterizzati e ben disegnati o comunque modellati, quello che è. Ma la famiglia Frankenstein, a me non è piaciuta per niente. Le facce mi sono state sul cazzo dall'inizio alla fine, soprattutto Victor. E anche Sparky non mi è piaciuto. Non so, quello del corto vivo era vivo e vegeto. Insomma, un animale vero era molto più simpatico. Questo mi ha dato sui nervi subito. E quindi non dico che è tornato il Burton di una volta, è tornato al Burton di una volta. Per me è finito. Cosa fa adesso? Rifà un altro suo film? Vandalizza un altro classico della letteratura per bambini? Non so, fa di nuovo Biancaneve in versione gotica? Non ha più idee, è morto. Il prossimo film sarà La famiglia Addams, sempre in stop motion. Eccala, perfetto, è morto. Vabbè, magari è anche un tentativo di ricaricare batterie. Certo. Credici. Ma io ci credo, perché comunque alla fine mi è piaciuto. Sui tempi morti non posso risponderti, perché cioè mi accorgo sempre di più che non è una cosa che non posso giudicare. Insomma, io non me ne accorgo dei tempi morti, a meno che proprio non sono evidenti e magari il film non mi sta appassionando. Però ho letto anche di molti che con Genco si sono annoiati perché è troppo lungo. A me sinceramente, se fosse durato un'altra ora non me ne sarei accorto, quindi proprio ho sviluppato una tolleranza ai tempi morti che è al di là dell'umana comprensione. Io ultimamente sto vedendo film sopra le due ore, ma anche sopra le due ore e mezza. Questo dura un'ora e 26 e l'ho sentita. È mosciarella anche. Non lo so, non sono d'accordo. Vabbè, sì, è soggettivo. Sì. Vabbè, quello che il resto che hai detto, alla fine, insomma, non saprei come controbattere, ecco, sulla questione del... Tu comunque hai visto il corto, quindi ne sai più di me sul fatto delle aggiunte e tutto il resto. Non mi sembrava così superflua l'aggiunta comunque dei personaggi secondari e dei relativi mostriciattoli, insomma, alla fine anche quello veicola una sorta di messaggio, che è il messaggio di fondo del film, comunque. E la scienza attraverso... è bella. No, che la scienza è bella, comunque che l'esperimento, se lo fai con cuore, ti riesce, se invece lo fai alla cazzo di cane, lo fai solo per altre ragioni, non ti riesce. Ed è un po' anche la metafora del cinema di Burton, fino a quando ha fatto film che comunque, film personali, comunque era da promuovere senza riserve, mentre invece quando ha iniziato a fare film puntando comunque allo sfruttamento commerciale del suo cinema, del suo stile, è un po' decaduto. E faccio riferimento ai film dopo la fabbrica del cioccolato. Ha iniziato a fare film tutti uguali, a ripetere la stessa formula. È arrivato Alice in Wonderland e Dark Shadows, che hanno rappresentato, come scrivo la recensione, i chiodi della bara. Ma io la vedo così, insomma. Poi non, non lo so, sarà un'interpretazione solo mia. Ma quindi la fabbrica lo tieni fuori da questi? No, ma allora io i primi tre di questo periodo, sebbene riconosco che dal punto di vista estetico si somigliano tutti quanti, ovvero Fabbrica del Cioccolato, La Sposa Cadavere e Sweeney Todd, alla fine non mi sono sembrati brutti film. Quindi sì, ok, si iniziava a vedere un Burton ridondante e autoreferenziale, però tutto sommato era tollerabile. Quelli dopo, ovviamente, vabbè, ne abbiamo già ampiamente parlato, degli altri due. Quindi sì, sostanzialmente li salvo. In extremis, ma li salvo, insomma. Perché vabbè, gli voglio bene. Ti appoggio il discorso sulle cose fatte col cuore. Quello va bene, però è un'aggiunta di due pagine di sceneggiatura a un corto. Non c'è veramente nient'altro, Tutta lì. Ecco, magari sì, non avendo visto il corto, per me è stata un'esperienza diversa, ecco. E vogliamo sentire anche Intrinseco sull'argomento? No. Che sì. Mi sembra un po' la via di mezzo tra le nostre due. Sì, infatti volevo esordire così, che non mi ritrovo in nessuna delle due posizioni. Intanto, vabbè, è stato già anticipato, anch'io lo aspettavo un po' al varco, un po' perché i film che ha fatto ultimamente, insomma, sono quelli che sono. Ne abbiamo già parlato troppo, quindi ok. E poi per il discorso del cortometraggio, fosse stato un altro regista o il Burton di qualche anno fa, quando ancora un pochino ci credevo, avrei detto vabbè, vuole farlo, vediamo che ne tira fuori. Però a farlo è il Burton che ha fatto Dark Shadows, che ha fatto Alice in Wonderland, quindi ora come film mi sembra un tentativo di recuperare quello che c'era di buono nel suo cinema, quello che piaceva al pubblico, a tutto il pubblico, non solo ai fedelissimi che sono rimasti. E quindi ero lì, aspettavo al varco, volevo vedere adesso cosa combina. E la paura era che, appunto, se si limitasse a riprendere il cortometraggio e ampliarlo, e non ampliarlo o arricchendolo, ma semplicemente metterci una zeppa in mezzo, ed è quello che ha fatto, secondo me. E sul ritmo non concordo del tutto, nel senso che non... Sì, con chi? Col, sì, infatti. Vabbè, tu non hai lamentato questo ritmo, sì. Quindi era sì, comunque giusto specificare. Non l'ho sentito così tanto. È un film tranquillo, parte molto tranquillo, non è che sia proprio un divertentissimo film d'animazione, però l'ho guardato con piacere da questo punto di vista. Quello che non mi è piaciuto, appunto, è la conferma che non c'è neanche un tentativo di arricchire, è proprio un rifarsi e aggiungere qualcosina, cioè allungare il brodo. E cos'è? Vabbè, tu hai detto lui non voleva spoilerare, ma non credo sia niente di che. Cioè, poi cosa ha fatto? Lui aveva fatto l'omaggio ai monster movie della Universal, e la logica conseguenza qual è? Fare l'omaggio ai monster movie, no, logica lo so, però ai monster movie in parte ai kaiju ega giapponesi, comunque c'è il riferimento abbastanza diretto a Gamera della Daiei, c'è anche altri tipi di creature, però insomma vuole andare in un altro genere, come dice, è un film moderno e quindi ci aggiungo qualcosa. Le mie influenze sono anche queste, forse, no? All'epoca era solo Frankenstein, adesso è Frankenstein, i mostri giapponesi e quant'altro. E questo mi sembra comunque sì, un'idea carina, perché lo è, come ampliamento può anche funzionare, però non rimane quello che è, una zeppa, un'acqua buttata nel brodo che era già troppo annacquato. Quindi boh, dico diciamo cosa mi è piaciuto a questo punto. Sì, effettivamente la famiglia magari è la cosa più anonima dal punto di vista estetico, però è davvero bellissimo. Ma a non me è piaciuto solo, molto. Non solo, secondo me anche dal punto di vista della caratterizzazione. Sì, sì, sì, sono proprio le macchiette, cioè i personaggi tipo il padre che vorrebbe il figlio più sportivo, la madre è assente praticamente, personaggio che potrebbe non esserci, lui è come il personaggio del cortometraggio, anzi forse quello era un po' più vivo, non perché fosse in carne e ossa, ma perché era un pochino più bambino. Questo è un bambino da film d'animazione, quello che ha la passione per la scienza, insomma diventa un po' rarefatto come personaggio. Però in generale mi è piaciuto tantissimo il gatto, i primissimi piani sul gatto, mi piaceva molto, è davvero ben fatto, come qualità è pazzesca, è davvero una stop motion stupenda. E in questo non ho nulla da dire, è stato bellissimo vederlo, è meno divertente da guardare in generale, non... sì, ecco, è come se fosse, cioè, la fine della parabola discendente, boh, diciamo Dark Shadows, ma più probabilmente Alice in Wonderland. E questa è una risalita, proprio l'inizio di una risalita, non perché ci sia una ripresa, ma perché è un pochino più su del baratro in cui stava prima. Non vuol dire che dopo ci sia meglio o peggio, dico solo che nel baratro c'è questo lume che, insomma, positivo, almeno in parte. Non so, non so cosa pensare per il futuro, io non ho cambiato idea sostanzialmente, non mi fa cambiare idea e non so, lo salvo appena, ecco, ho detto in altre sedi il voto che gli avrei dato è appena sufficiente, ecco. Non lo voglio massacrare perché non me lo sento, nel senso ha dei punti positivi, però cioè, un comparto estetico soddisfacente e nulla di più, secondo me. Ecco, magari per stagione gli effetti sulla carriera di Burton, pare un'ovvietà dirlo, ma bisognerà aspettare il prossimo film. È un, come dici tu, una sorta di canto del cigno, come diceva il Monco, insomma, un canto del cigno della carriera di Burton, o se effettivamente è un polmone, qualcosa che gli permetta di risalire e tornare ai livelli per cui abbiamo imparato ad amarlo, ecco. È tutto lo stagno che ha cantato. No, vabbè, ovvio che uno può anche rinascere, da cigno a fenice. Però, no, volevo solo chiudere, sennò sembra un cattivone. Sì. Alla fine, lascia stare Movie Shelter, che cazzo me ne frega, quel voto che gli ho dato. Se hai visto, su IMDb ho dato un 6. Perché anch'io ho apprezzato le cose che ha detto Intrinseco, come comunque ha ricreato le stesse ambientazioni del corto, le ha rifatte in scala, è un lavoro ottimo, però appunto insomma è un rifacimento, non riesco ad andare oltre un tot, lo apprezzo fino a un certo punto, poi basta, è un bel film, è un bel filmino, però, ecco, quello che ho detto prima, insomma. Poi non c'è Sofia Coppola, scusa. Esatto, anche per quello. Era una grave lacuna. Il cortometraggio era la sorella di Victor. Una cosa strana, non so bene, non conosco il passato di Burton, ma non so se avete notato, in questa serie di film suoi, stop motion e non, il cane è sempre lo stesso. Cioè, nel corto d'animazione era un Bull Terrier, che a me piace tantissimo, quindi preferivo il cane in carne ed ossa. Poi c'è questo col naso a punta, sempre disegnato allo stesso modo. Poi mi è tornato in mente lo Zero di Nightmare Before Christmas. Vero, vero. Ah, è vero, vero. Riprodurre la stessa immagine, poi magari è solo un suo modo di raccontare. Ma forse c'è anche qualcosa di autobiografico. Infatti, perché il fatto che l'abbia anche potuto fare, magari. Però quanto è bello il gatto, prima che sì, diventi il gatto. Di... È fatto davvero bene, l'occhio spiritato, la bocca che si apre da sola, è molto bello. Certe piccole cose sono davvero belle da vedere, poi in generale è bellissimo. È spaventoso pensare che questo è un tipo di animazione vecchio, cioè un trucco che si usava nei vecchi film per sopperire agli effetti speciali. Invece si può ancora fare un bellissimo film da questo punto di vista, ancora nel 2013-12. E poi immagino che sia talmente difficile girare in questa maniera che fare qualcosa di brutto è praticamente impossibile. Cioè, alla fine, quanti film in stop motion brutti recenti di animazione ricordi? No, infatti, se ne fanno pochi, ma quei pochi sono effettivamente... Anche Paranorman era molto ben realizzato, anzi lì forse al di là della qualità dei modellini c'era un po' più di creatività, c'erano delle bellissime idee. E poi appunto, sì, quando pensi, guarda come l'hanno fatto, dici, caspita, non posso che parlarne bene. Ma ultime due cose sul cane. Mi sembra che fosse anche in una serie TV di Burton, solo che adesso non mi ricordo, l'ho letto da qualche parte... E il cane originale del corto è lo stesso che c'è in un film di Lynch, dovrebbe essere Velluto Blu, ma mi può sbagliare, devo andare a vedere. Comunque ha fatto anche un film con Lynch, quel cane, quindi è meglio di Burton. Essendo un po' giunti a questo punto, possiamo passare all'altro film della puntata, ovvero a Django Unchained di Quentin Tarantino. Ce lo introduce Intrinseco, che ha scritto anche la recensione sul nostro blog. Sì, faticosamente, non so perché, però mi è pesata. Vabbè, insomma, ne avevamo parlato nella puntata di fine anno, quali erano i film che aspettavamo di più, vabbè, si sapeva, era uguale un po' per tutti. Django Unchained era una delle pellicole più attese degli ultimi anni, anche perché, si sa, insomma, chi lo conosce Tarantino, voleva vedere un omaggio al western, soprattutto allo spaghetti western. Chi lo conosce ancora meglio sa che, come ho detto nella recensione, gli omaggi al western ne ha già girati, erano scene, magari sequenze che inseriva nei vari film, però ne ha già fatti in abbondanza di omaggi ai suoi, diciamo, alle sue influenze cinematografiche. E comunque rimane tale, è un omaggio anche allo spaghetti western. Mi liquido subito la storia perché tanto è elementare, la conosciamo già tutti. Questo dentista si chiama Dottor King Schultz, interpretato dall'ormai amatissimo Christoph Waltz, è un cacciatore di taglie, oltre che un dentista, o ex dentista e ex artista circense, ed è alla caccia di questi criminali, fratelli Brittle, che non ha mai visto in faccia, per cui per trovarli si rivolge allo schiavo Django, che li riconosce, e quindi lo recluta per ritrovare questi criminali e per dargli la libertà. Una volta completato il compito, insomma, si sente in dovere di aiutarlo a recuperare, a salvare la moglie, che come Django era stata venduta dopo un tentativo di fuga ed è finita nella piantagione di Calvin Candy, interpretato da un folle Leonardo DiCaprio, che è talmente folle che è uscito provato dal film e ha deciso di prendere una pausa di non si sa quanto, e quindi si mettono in viaggio e raggiungono Candyland, questa piantagione barra villa in cui Brumilda, la moglie di Django, è tenuta prigioniera. E tutto qui. Django è uno schiavo, è un nero, e il film è un revenge movie di uno schiavo che si libera e va a salvare sua moglie. Quindi, piuttosto che un western, è stato detto e ridetto, Tarantino ha fatto ha rifatto un'altra volta un suo Blaxploitation, che è, diciamo, la matrice principale del film, perché comunque rimane la veste del western. E tutto qui, insomma, il genere è ambiguo come al solito. Tarantino prende un filone, sembra che voglia omaggiarlo, in realtà poi ci infila dentro di tutto. L'ha fatto con Kill Bill, l'ha fatto con Bastardi senza gloria, era già un po' più netto, però comunque anche lì le influenze erano molteplici. E quindi fa questo spaghetti western con i neri ed è, insomma, un tripudio di violenza, battutacce, gag più o meno deliranti, a volte troppo, anche per il cinema di Tarantino, tant'è che molti sono rimasti un po' perplessi da una gag in particolare, di cui magari parliamo dopo. Comunque è un violentissimo revenge movie che, insomma, punta tutto sulla rivalsa dello schiavo, che appunto si libera e letteralmente impugna la frusta e colpisce i suoi carnefici fino a tramortirli. C'è una scena bellissima che è proprio forse la metafora del film, in cui lui raggiunge i primi, diciamo, i primi criminali che deve rintracciare, e su uno di questi si accanisce con la frusta come era stato fatto con lui. E questa violenza esasperata, esageratissima, sa un po', appunto, di liberazione. È bellissimo anche il fatto di prendere il protagonista, co-protagonista, un tedesco, poi in particolare Waltz, che era stato nazista nel film precedente, qui è ancora un tedesco in America che è disgustato dagli schiavisti, prova disgusto per il razzismo, e cosa fa? Insomma, è un abile oratore, un velocissimo pistolero, quindi mette in difficoltà in tutti i sensi questi uomini forti del sud, no? Gli ignorantoni stupidi e goffi che non riescono a stare dietro né alle sue parole né alle sue pistole, e quindi è tutto giocato su quest'ironia, un'ironia abbastanza amara sul passato dell'America. Io ho tirato fuori un paragone con Killer Joe, non mi sembra troppo inappropriato, lì c'era il Texas, qui non so se viene specificato esattamente dove è, sì, mi sembra Candyland, no, Mississippi. Non Mississippi, se non sbaglio, sì, infatti c'è la scritta che poi, se non sbaglio, è un omaggio a Via col Vento. E comunque il profondissimo sud, ed è un profondissimo sud davvero profondo, stagnante, puzzolente e sporco, e Tarantino si accanisce, qualcuno dice Tarantino vuole fare l'afroamericano, vuole fare il nero, soprattutto viene imposto come critica questo, secondo me è vero, ma non ci vedo nulla di male, fa un bellissimo ritratto di questa America tutta da dimenticare, e non riesco a vederci nulla di male, quindi non sarà che non ho vissuto quel tipo di segregazione, quindi non potrò capire, però io non so, lo trovo davvero profondamente divertente da questo punto di vista. E il punto di forza è qui. È divertente, probabilmente è stato divertente da girare. E... divertente perché, insomma, l'ho già detto, è... c'è la solita dialettica di questi personaggi tremendamente sopra le righe, anche se, e questo forse va un po' tra i difetti, almeno io ho sentito l'ho sentito meno incisivo da questo punto di vista. Sì, c'è Waltz che seduce con le parole i cattivoni, però ecco, mancano davvero quelle chiacchierate al tavolo che rendevano grandi i suoi film precedenti. C'è qualcosa, ma secondo me non... nulla di davvero memorabile. Qualcuno dice sì, ci sono le battute che ricorderemo. Sì, le battute è una cosa, perché fanno parte dell'omaggio. Io parlo proprio del dialogo nella forma tarantiniana. E poi c'è questa violenza davvero completamente fuori dagli schemi. Queste pistole fanno un casino spaventoso, fanno esplodere le teste letteralmente, muoiono anche i cavalli, cosa che si vede poche volte nei film western. E fanno esplodere davvero le parti del corpo, e il sangue, è più che sangue, è una melassa rossastra che schizza fuori davvero a zampilli densissimi e ricopre tutto, specie nel finale dove c'è questa serie di sparatorie al chiuso, ripetiamo, poi il chiuso, ovviamente è importante perché rende anche l'idea della chiave del film. Insomma, non è un western convenzionale che avrebbe dei grossi campi lunghi, dei paesaggi ampissimi, che ci sono sì nella prima parte, ma sono poca cosa. Invece diventa forte, diventa tarantiniano quando appunto entra al chiuso, quando le pareti si ricoprono di sangue, le sparatorie fanno schizzare in legno da mobili e pareti, e, insomma, quando la situazione si fa più claustrofobica, tant'è che poi ci ritroviamo in quelle tipiche situazioni tarantiniane. Insomma, il crescere di tensione, la situazione che arriva un po' sul filo del rasoio e si aspetta l'esito drammatico, insomma, come poi succedeva anche in Bastardi senza gloria, tra l'altro c'è sempre Waltz in mezzo in queste situazioni. E quindi sì, un film davvero divertente, strapieno di omaggi a molti film che non ho visto, altri che invece ho visto, ovviamente Django di Corbucci, di cui cioè, parla il Monco nel dossier, soprattutto parla delle varie filiazioni bastarde dell'originale, e poi altri film di Corbucci, che comunque mi sembra più importante questo film di per esempio Un leone. Sì, al leone c'è l'omaggio, ma c'è sempre. Corbucci viene chiamato in causa spesso, dal titolo alla canzone, al personaggio, all'attore Franco Nero che fa un cameo rapidissimo, che io non ho trovato particolarmente brillante, però insomma, è lì e fa quello che deve fare. E poi c'è anche un po' di Il grande silenzio, no? Uno dei primi western con la neve. Qui ci sono delle piccolissime scene, ma lo fanno tornare alla memoria. Poi c'è qualcosa del mercenario, che non dico perché è una scena spoilerosa. E poi c'è un po' di tutto, sì, di nuovo, Leone, Il buono, il brutto e il cattivo. Western, non solo spaghetti western, ma anche western veri e propri. Qualcuno ha trovato anche citazioni che magari io non avrei notato, e meno dirette. Quindi comunque il solito Tarantino da questo punto di vista, ricchissimo. Quindi direi positivo da tutti i punti di vista. Stupenda regia, magnifica cura per i dettagli. Siamo in un film grezzo e rozzo, eppure le tavolate, le stanze, i cavalli, le selle, i costumi, tutto pazzesco. Poi è bello vedere questo attore DiCaprio, belloccio, in un ruolo così, e vederlo con i denti sporchi, cosa che nei western non si vedeva, neanche nei vecchi spaghetti western. Ci si chiede sempre: ma perché non hanno i denti sporchi? E lui ce li ha, è sporco dentro e quindi deve averli, mentre invece i buoni magari sono marchiati dalle cicatrici, ma sono puliti e cinici e splendenti come i peggiori eroi del genere. Poi sì, ci sono le interpretazioni, insomma, si sono spese parole e parole, ribadiamolo, Leonardo DiCaprio tutto sommato ha una parte molto piccola nel film, piccola relativamente, comunque un film di 2 ore e 40, copre diciamo il secondo tempo e si vede poco, finché non si vede quando serve, in un monologo bellissimo che molti ricorderanno, perché è pazzesco, è davvero cinico, forte da sentire nonostante il tono caricaturale. E poi questa cosa stranissima di DiCaprio che spacca un bicchiere, si taglia e continua a recitare mentre la mano gli gronda di sangue letteralmente. bellissima da vedere, sapendo che è vero, è quello che succede. Poi c'è un Waltz che, vabbè, non, secondo me non fa troppo di più di quanto aveva fatto con il colonnello Landa, anzi è un personaggio speculare, una continuazione, insomma l'adorabile canaglia, un po' più adorabile ma anche un po' più canaglia in certi casi, e, insomma, il solito doppiatore, ma gli rende giustizia, insomma è bellissimo sentirlo parlare, distrarre questi campagnoli imbecilli che si lasciano burlare così e poi vengono colpiti in modo inaspettato, insomma. E bravissimo, divertentissimo, e poi non mi fermo, sto per dire una cosa troppo rivelatoria. E poi c'è un sentivo, pensavo di aver coperto una parola. E poi c'è un Samuel L. Jackson che ci ricorda perché ci piaceva tanto, non lo vedevamo recitare da anni, soprattutto non lo vediamo recitare da anni, ma nonostante i ruoli che fa, sono tantissimi, troppi e pochissimi da ricordare, e invece qui vediamo un personaggio che qui davvero rimpiazza il colonnello Landa, cattivissimo, cinico e odioso, un nero che odia i neri e che diventa, diciamo, complice del padrone. Insomma, la peggior forma di sottomissione alla tirannia è proprio la complicità, e lui è uno schifoso servo, anche se poi in realtà vediamo che sembra quasi tirare lui un po' le redini della cosa. È un personaggio bellissimo che probabilmente in lingua originale rende molto di più, e comunque in italiano non viene troppo massacrato. Credo che il doppiatore del trailer fosse diverso, adesso non sono sicuro. Poi c'è Jamie Foxx che fa il suo dovere, è uno sguardo di ghiaccio e pistole velocissime, non deve fare di più, non fa nulla di più, però è il volto che vorresti vedere, ovvero gli occhi quasi buoni ma che diventano cinici in certe scene e quasi spaventosi. E c'è anche una sorpresa, almeno si sapeva che ci sarebbe stato, però un Don Johnson che fa la sua parte, insomma il sudista un po' ignorantone, un po' effeminato sembra nel doppiaggio italiano, forse non riesce, dicevamo io e il Monco in sala, cercavano di simulare l'accento del sud, invece fanno questa vocina stridula, che secondo me danneggia un po' anche la scena dei cappucci, la tanto amata scena dei cappucci, che viene un po' troppo grottesca con queste voci così, un po' poco adatte. Tra l'altro c'è un Jonah Hill in una brevissima comparsata, che ovviamente fa la parte del deficiente, e comunque tutto divertentissimo, interpretazioni pazzesche, davvero tra le migliori di quest'anno, vabbè, appena iniziato, però anche dell'anno precedente, una violenza che almeno a me ha divertito moltissimo, come ha divertito in Kill Bill. È un tipo diverso, perché insomma qui si parla di pistole e l'influenza degli spaghetti western è forte, si vede questo sangue che è più vernice che sangue, appunto. E però c'è qualcosina, io ho detto nella mia recensione, non mi sento di metterlo addirittura allo stesso piano degli altri film, io non ho una classifica, io ho apprezzati tutti allo stesso modo, sono tutti bellissimi, anche e soprattutto A prova di morte, che qualcuno inspiegabilmente mette tra i divertissement, comunque tra i filmetti meno importanti della filmografia. Io credo che siano tutti dei divertimenti per Tarantino, e quello sia bellissimo quanto gli altri, nonostante la copiata con quello di Rodriguez. Però ecco, qui non so, sarà che forse l'ho visto e non è stata una visione sufficiente, dovrei riguardarlo, però intanto ecco il difetto, che secondo me è oggettivo, comunque nel senso è più che altro tecnico e non soggettivo, è che ho avuto l'impressione che fosse troppo frammentario, specie nella parte centrale. Ho riportato l'esempio di Bastardi senza gloria, che aveva come sempre nel cinema di Tarantino una struttura, diciamo, episodica quasi, però lì non l'ho sentito così tanto, ricordo di averlo sottolineato come difetto, ma non lo sentivo così tanto, perché è un film quasi corale, ci sono un mare di personaggi, un mare di sottotrame, tante cose da tenere d'occhio e via. Qui invece abbiamo due personaggi e una storia di una linearità insomma elementare proprio, ed è giusto perché il genere lo richiede, però qui quel tipo di narrazione, quella mancanza di solidità che c'è soprattutto nella parte centrale iniziale, insomma dopo l'incontro, tende un po' a sacrificare il ritmo in vista poi dell'allungo finale, che è bellissimo, ma insomma ci si arriva con un po' meno di grinta di quello che sarebbe necessario. E poi in questi giorni è venuto fuori il solito discorso, il film era di 5 ore, Tarantino l'ha tagliato, e secondo me si vede, ora che sembra sia ufficiale, posso dirlo, secondo me è abbastanza vistosa come cosa, un po' perché c'è questo problema della frammentazione, un po' perché ci sono degli inserti che forse sono una forma di omaggio anche quella, perché negli spaghetti western c'è sempre il flashback brevissimo magari, ripetuto, però qua ci sono un sacco di scene brevi inserite per far vedere Brumilda prima, Brumilda mentre Django la cerca, insomma cose che facevano parte della versione integrale che lui ha dovuto tagliare o voluto tagliare. Franco Nero, non so con che autorità, ha detto che Tarantino è più soddisfatto di questa versione, che è durata la metà, per cui non so, non vedo come possa essere così, però vabbè. E quindi credo che sia tutto da ricondurre a questo. Si vedono gli esiti, insomma, di questa operazione chirurgica. E poi quello che dicevo prima, a me sembra, ecco, il Monco ha tirato fuori su Facebook quella vecchia, non vecchia, comunque quella recensione della sceneggiatura messa sugli Spietati, e loro dicono è un cinema che è diventato normale, cioè Tarantino è diventato normale e il suo tipo di omaggio è diventato consuetudine. Io mi ritrovo un po' in questo, volevo scriverlo nella recensione, poi l'ho lasciato un po' perdere, magari ci tornerò dopo a maneggiarla, perché era una cosa abbastanza soggettiva, però l'impressione è che sia tutto un po' troppo meccanico. L'omaggio, la violenza, la battuta sono un po' servite e preconfezionate rispetto agli altri film. Anche l'ironia, che è bella, la scena di Cappucci è giustamente demenziale, però è un po' troppo demenziale, un po' meno raffinata di quella a cui ci ha abituato. E boh, come l'impressione che sia diventato un po' maniera il suo modo di fare cinema, almeno in questo caso, non vuol dire che sia diventato e rimarrà. Però qui, ecco, ho trovato un po' la volontà di accontentare lo spettatore che vuole vedere quelle cose, l'omaggio, la citazione, allora gliele servo in quel modo, non so spiegare, non è una cosa oggettiva, è una mia sensazione, è tutto un po' troppo così, mi sembra un po' preconfezionato come tipo di film. Mi sembra un po' troppo poco per dire che Tarantino è diventato normale. No, non normale, nel senso il suo cinema è diventato un metodo, è diventato più metodico ed è meno, colpisce meno. Forse uno spettatore, lui magari continua a farlo con lo stesso spirito. Normale nel senso che gli altri registi non fanno quello che fa Tarantino. Nessuno ancora ci si è avvicinato, non credo intendano quello. Ci siamo abituati, forse anche un po' colpa dello spettatore. Forse volevano dire quello, non lo so. Ovviamente poi ho interpretato le loro parole. E mi fermo che ho parlato troppo. Sì. Perché io ricordo i nostri commenti quando uscì Bastardi senza gloria, no? Mm-hmm. E mi sembra che anche voi foste d'accordo sul forum di Games Village, ma trovammo delle analogie tra Bastardi senza gloria e A Serious Man dei Coen, no? Sul fatto che magari non sono i migliori film dei rispettivi registi, ma erano i film che forse più maturi dei rispettivi registi, nel senso che con Bastardi senza gloria Tarantino aveva raggiunto una maturità nella struttura e nella narrazione che difficilmente riusciamo a immaginare come poteva fare di meglio dopo Bastardi senza gloria. Sì. E forse il fatto che ha abbandonato almeno dal punto di vista esplicito la struttura episodica, ma poi effettivamente è un film a episodi anche questo, e forse c'è anche un tentativo di evolversi da parte di Tarantino. Però, come dici te, forse c'è un po' di disordine poi, perché comunque la struttura a episodi dichiarata, come era quella di Kill Bill, come era quella di Pulp Fiction, ma come anche quella di Bastardi senza gloria, dava comunque più ordine. Magari riuscivi anche a tollerare meglio determinati passaggi repentini, non lo so, cambi di location abbastanza bruschi, cose del genere. Qui, non lo so, l'ho avvertito anch'io un po' di disordine nella soprattutto nella parte centrale, che è quella che, non lo so, mi sembra più tirata via, e forse è quella che ha subito più tagli, perché alla fine dell'avventura di Django come assistente del cacciatore di taglie non è che si vede molto, ecco. No, sono due sequenze un po' troppo repentine che... Siamo riassunto un clip show quasi, no? Sì. Loro che cavalcano, loro che imparano a leggere, lui che spiega le varie cose, e davvero qui sembra, ecco, tu dicevi, è normale, nel senso che in Kill Bill c'era già questo tipo di messa in scena, però lì sembrava più programmatica come cosa, no? Tant'è che poi c'erano i titoli, le cose, era un po' più studiata, qui sembra quasi un involontario o una conseguenza dei tagli. Cioè, quando devi tagliare un film di 5 ore, probabilmente la cosa più semplice è dividerlo in parti. Solo che qui, secondo me, il film esce danneggiato. Poi, come dicevi tu, forse altrove, non le senti tanto quelle due ore e mezza. Io un po' le ho sentite, ma appunto nella parte centrale. Però non è un film che non scorre, per carità. Però secondo me non scorre come dovrebbe e non te ne accorgi tanto perché tutto sommato è divertente. Cioè quella violenza che ti acceca, ti sommerge di sangue, di battutacce e tu dici ah che bello, sono un po' distratto da, magari dal difetto, dallo scorrimento meno organico. Quindi è un difetto che è ben mascherato, comunque non si nota più di tanto, però a me ha fatto un certo effetto, ecco. Ecco, a me l'ha divertito parecchio anche i dialoghi, comunque. Forse, non lo so, magari avendolo visto una sola volta, forse dovrei vederlo più volte per dirlo con certezza, però mi hanno divertito anche più che in altri film di Tarantino, anche in quelli più blasonati, ecco. Non lo so perché. Vabbè, alla fine comunque sì, le 2 ore e 20 forse si sentono un po', però come leggera lui le scene con solo i dialoghi è fantastico, cioè è capace di farti stare in una stanza per quanto? Mezz'ora senza che tu te ne accorga, perché sono talmente fluidi, è talmente fluida sia la scrittura che la regia in quei momenti che non te ne rendi conto. Non so, sentiamo un attimo pure il Monco, visto che per il momento è stato in silenzio per circa 40 minuti. Colpa di intrinseco. E che devo dire? No, volevo, ecco, mi inserisco tra le altre citazioni, devo andare a pescare il mitico Marco Giusti che segnala Charlie One Eye, che è forse quello a cui è più ispirato, ma è inedito in Italia, perché anche lì c'era un bianco e un nero a cacciatori di taglie, e tra l'altro Charlie One Eye viene anche citato durante il film, poi lo chiamavano King, c'è anche la canzone nel film, e il Magliaro a cavallo. Questi sono altri film che ha citato, ma credo che nessuno, a parte Marco Giusti, ha visto. E tra l'altro è importante Charlie One Eye perché il protagonista era Richard Roundtree, cioè Shaft. E sì, cioè Brunhilda von Shaft non è messo a caso, perché Tarantino ha detto che quei due, Django e Brunhilda, sono i bisnonni di Shaft. Pensate un po', è un genio Tarantino. E poi, sì, vi chiedevate cosa è stato tagliato. C'è un articolo sulla rivista Vulture, non so da dove venga, che sì, americana, però boh. In cui sì, si parla di questa versione di 5 ore, tra le parti in più sono quelle che si riescono a leggere dalla sceneggiatura, il che vuol dire che non sono proprio tutte, magari ha aggiunto anche cose extra dopo. C'è molte più scene con Brunhilda, per far, insomma, per caratterizzarla di più e farla conoscere di più il suo background. Poi una scena dove fa lo spelling di Django, ma in maniera decente, non quella roba con Franco Nero, che evidentemente l'ha messa dopo con Franco Nero perché Franco Nero sarà liberato. Poi c'è un gran bel pezzo su Zoe Bell, che nel film invece ha solo quella scenettina, vabbè, chi è riuscito a vederla, quella con sulla bandana rossa è lei. E poi vabbè, altri, un dialogo tra Django e Stephen, cioè Samuel L. Jackson, altri personaggi che sono stati uniti, poi il pezzo con le Quint Dickey Mining Company doveva essere molto più lungo, ci doveva essere un altro pezzettino in cui fa un riferimento che loro sono australiani e coi soldi potrebbero tornare in patria, vabbè, e vabbè, tante altre robe. In effetti sì, a 5 ore si arriva facilmente con queste. E non so, vai te Alex, poi dico dopo io. Vabbè, alla fine sottoscrivo quello che ha detto intrinseco e le poche cose che ho aggiunto. Poi magari volevo anche introdurre un po' la questione sollevata da intrinseco nella prima parte della recensione, ovvero il fatto che dopo Bastardi senza gloria il cinema di Tarantino è stato finalmente compreso dai fan. Però magari di prima la tua e poi parliamo di questa cosa qui. Allora sì, anch'io quoto intrinseco, soprattutto quando ho usato i termini in maniera, di maniera e servito. Non lo so, io l'ho visto 2 volte, pensavo che anche voi se sareste riusciti a vederlo, vabbè. Anche in originale, voi no mi pare, no? Io sì, no. Io in originale. La seconda visione, volevo vederlo proprio in lingua originale, poi ho rimandato. Beh, quindi parto subito col dire che se riuscite guardatelo in originale, poi anche in italiano, però quella parlata del sud e tanti dialoghi, ecco, parlavi di Don Johnson, e Don Johnson in italiano non ti rendi conto perché è stato così, cioè chi l'ha visto in originale parla così tanto bene, sì, hanno tentato un lavoro di meridionalizzazione, non so, però il lavoro è anche giusto. Hanno sbagliato semplicemente il doppiatore, che mi sembra che sia quello di Richard Gere, sbagliatissimo, vabbè. E anche Samuel L. Jackson in originale, una cosa incontenibile, meraviglioso, eh? In italiano sì, ma non così tanto. Comunque, sì, è di sicuro il più divertente di Tarantino, divertentissimo sia per quello che si vede sia per quello che si sente. Sono effettivamente i dialoghi più divertenti, e non vorrei che fosse questo il punto su cui si basa la critica dei neri, che insomma l'ha messa un po' troppo a sorridere. Certo, gli ebrei dicono, e vabbè, allora abbastanza senza gloria, sì, ma quello era serio, da un certo punto di vista, era molto più serio di questo, vedi, qua gli ebrei sanno ridere, i neri no, sempre seri, vabbè, questa uh-huh. parte. Sì, allora, devo dire che ha un inizio strepitoso, perché inizia benissimo, non come Bastardi senza gloria, che c'è qualcuno che ha detto che la prima scena di Django è migliore di Bastardi senza gloria. No, ora rivedetevela, no, pezzo con scemmia. No, dai, ma no, vabbè. L'ho letto ma varie volte, no, davvero rivedetelo, perché quello era un capolavoro. Questo è un aneurisma, questo. Sì. Non è manco una bestemmia. Sì. È una salita di ritmo e di divertimento ripidissima, sale sempre di più, è sempre più divertente, sempre più uno spasso. Poi succede che finisce il film, perché in effetti la trama principale è quella che c'è un Doc Schultz che libera Django se lui gli permette di arrivare alla sua missione, che è di uccidere i fratelli Brittle. E lì praticamente è un film a sé, è finito. Poi inizia un secondo film, si può anche dire Django 2, che è il sequel, in cui questa volta il protagonista è Django. Cioè si ribaltano, prima il primo film l'abbiamo dedicato a Schultz, adesso lo dedichiamo a Django. E da lì rinizia un film, in cui c'è quel pezzo che avete detto anche voi, dove si allenano in coppia per fare i cacciatori di taglie, che a quanto pare non è tagliato, perché nella sceneggiatura c'è tutto, si vede che ha fatto questo pezzettino solo per far vedere dei pezzi, in effetti però non è che sia un granché. E poi entra in gioco Candy, Calvin Candy, che non so, è un pezzo stancante, tutto il pezzo in cui sono a cavallo da dopo che l'hanno incontrato fino a Candyland. Io ero come il Milhouse quando vede l'episodio con Pucci, ma quando arrivano a quella fabbrica di fuochi d'artificio non finisce più, sono sempre lì. Poi arrivano nel pezzo coi trogloditi comandati da Stone, non mi ricordo come si chiamava, Stone Cipher, quello che non riesce neanche a parlare, e dice sì, vabbè, ma arrivate o no a sta Candyland? E da lì il film si addormenta quasi, fino a quando c'è quella magistrale scena di DiCaprio che tira quella martellata e ti svegli anche te, e lì il film riprende. In effetti sì, la sceneggiatura ha degli sbalzi di ritmo un po' che da Tarantino non ti aspetti. È vero che lui come avete detto voi, facendo sempre episodi, se la cavava, però qui fa solo due episodi, il primo e il secondo, appunto da quando inizia il secondo film, e c'è uno sbalzo, proprio si sente che cala il film, crolla quasi. E poi c'è quel finale che sì, riprende tutto, è un finale esplosivo da tutti i punti di vista. Poi io non sono d'accordo con Intrinseco sul sangue, ecco, mi ha stranito, eppure io arrivo da, cioè lo conosciamo benissimo Tarantino, è quello degli 88 folli. Eppure qui è un sangue eccessivo, veramente eccessivo, è davvero melassa che cola. E soprattutto con la sparatoria, con un po' di rallenti, con corpi che vengono dilaniati. Qualcuno ha detto è l'ennesima copia delle sparatorie di John Woo, ma fatta male addirittura. Sì, in effetti non mi ha convinto, ma tutta la parte finale, fino a metà, è un bellissimo film. Dalla metà in poi è quello che diceva anche Intrinseco, la battuta e la scenetta servita, il film di maniera, e alla fine mi sembra un Tarantino minore nella seconda parte, e sente il peso di Bastare senza gloria, di certo, arrivare dopo quel film, e e mi viene da fare un paragone con Jackie Brown. Entrambi Blaxploitation, entrambi vengono dopo un filmone di Tarantino, cioè dopo Pulp Fiction e dopo Bastardi senza gloria. Cosa puoi fare? Fai un film che o fai un altro capolavoro, ma è davvero difficile, o fai un buon film ma che non ce la fa a battere quello prima. E niente, chiudo solo dicendo che quando era uscita la prima notizia, Tarantino farà un western, io ero contentissimo, purtroppo non ha fatto un western. Pensate solo a Tarantino che fa un western, sarebbe stato bellissimo. Ha fatto questo, va benissimo. Oddio, Tarantino fa film dalla Tarantino. Sì, sì, vabbè, è vero anche quello, è vero anche quello. Però mi aspettavo più un western classico, col triello finale, con quelle robe lì, e molti più paesaggi, molte più sparatorie, vabbè, fa niente. Però, e qui mi ricollego anche ai Coen, che dopo A Serious Man hanno fatto il loro western, che ha deluso tantissimo, perché non era un granché, ecco. Così ricollego tutto e tutto e tutto. Purtroppo ci siamo giocati il western di Tarantino. Ha fatto un altro Blaxploitation, bello, ma non un Tarantino, mi dispiace dirlo. C'è ancora tempo per fare un western vero e proprio, chissà, non credo, ma... ne fa solo tre ancora. Vabbè, dai, su tre magari. Ma difficilmente ritorna sullo stesso genere. Vabbè, vedremo. Sì, sì, ci spero. No, volevo dire una cosa sul ritmo, no? Se alla fine vai a vedere anche Kill Bill, no? Cioè, in Kill Bill c'è la stessa cosa, sale il ritmo fino a un certo punto, poi scende nella prima parte della parte 2 e poi risale, no? Quindi magari aveva bisogno di più spazio per sviluppare un film simile da quel punto di vista. Quindi forse i tagli hanno influito parecchio su questa cosa del ritmo, sui difetti di ritmo che hai denunciato tu, insomma. E la cosa buona di Kill Bill è che era anche diviso in due. Pensa a Django più lungo ma diviso in due, forse sarebbe stato meglio, non lo so. Comunque sì, qualcuno lì si lamentava, ma è stato, diciamo, un bene la divisione in due. Qui chissà se davvero è stata una cosa voluta o se ha detto no, se ne faccio due, poi ne ho due, ne ho uno in meno da fare per i miei 10 previsti. Non so. Beh, la divisione in due è intesa come, cioè, a me andrebbe bene anche il film da 5 ore, perché 5 ore mi ci starei. Se poi modo. È scritto bene, funziona bene, perché no, certo. Il problema invece è quando lo comprimi e magari escono fuori dei difetti. Quindi sì, avrei preferito anch'io, magari. E niente, io all'inizio della recensione tu hai detto che dopo Bastardi senza gloria immaginavi che tutti... iniziassero insomma a comprendere la grandezza del cinema di Tarantino. Però poi io vado sui forum e vedo sempre discussioni sulle citazioni, discussioni vabbè come quelle che ci sono state su Games Village, sulla logica, sul fatto che Schultz avesse o meno un solo proiettile nella pistola nascosta, ste cazzate qua. A me sembra che siamo tornati appunto a capo. Io lì conosco il forum a cui ti riferisci, io ho visto più che altro cose nuove, diciamo. Cioè, qualcuno si è inventato addirittura che è la verosimiglianza. Però questi mi sembrano spettatori. Poi hai visto che tipo di spettatori sono, però. Cioè, sì. Questi sono i nuovi spettatori. Ogni tanto Tarantino fa un film che cattura un po' l'attenzione e quella generazione, meno male, si mette in pari. Poi c'è chi magari non guarda molto cinema, come quell'utente che ha spiegato che di quel genere non aveva visto quasi nulla o nulla. Però comunque le critiche, più che alle solite cose, mi sembrano appunto cose diverse. Nessuno si lamentava nello stesso modo del dialogo, a parte qui non ci sono proprio quei dialoghi che molti hanno odiato. Non c'è la roba di Death Proof con le donne che parlano di cose da donne, per cui è un po' più semplice. A me non sembra che siano le stesse critiche, e comunque non nella stessa proporzione. Cioè, io parlavo più che altro di persone che conosco, che non avrei mai pensato avrebbero amato Tarantino, detto questi vedranno Bastardi senza colore e diranno ammazza che palle, invece l'hanno visto e dicono ah ecco, mi è piaciuto, e poi cominciano a dire ma perché fa questo tipo di cinema, perché ha delle influenze, allora andiamo a vedere quali sono. Cioè, voglio dire questo, che quando fai un film grande, bello e un capolavoro come Bastardi senza gloria, non sei più Tarantino quello che era con Pulp Fiction. Beh, no, all'epoca di Pulp Fiction era più o meno come Bastardi senza gloria, però con quello che faceva quei film di nicchia che guarda l'appassionato, no, fa un film che è piaciuto praticamente a tutti e quindi diventa un po' più di pubblico dominio come autore. Volevo dire quello, ecco. Ok. non lo so, se abbiamo altro da dire sull'argomento o possiamo passare a qualcos'altro. E cosa? Potremmo cominciare a elencare insomma quello che succederà la settimana prossima, che cosa uscirà insomma. Ah sì. Visto dei comunque film. Dei film, esatto, dei film che usciranno. Ne esce a bestia proprio. Allora, la settimana prossima esce Flight, di cui già potete trovare la recensione in anteprima sul nostro blog. Poi Flight di Robert Zemeckis con Denzel Washington, Don Cheadle, John Goodman, Bruce Greenwood, eccetera eccetera. Poi esce Lincoln di Steven Spielberg, di cui immagino a breve il Monco scriverà la recensione, vero? Sì, e credo domani, inizio già magari dopo. E dico solo che c'è una scena stracult nel finale con un Lincoln che zoppetta per un corridoio, ed è una scena veramente pessima, però è bella, è stracult, ecco. Ok. Parlerò. Poi esce In Darkness di tale Agnieszka Holland. Esce Quartet di Dustin Hoffman con Maggie Smith, Albert Finney, Billy Connolly, insomma un sacco di vecchietti. Pazza di me, il nuovo film di Fausto Brizzi, che ha già una stella su My Movies. Madonna. E poi esce Fukushame o Fukushame, non lo so, meglio di dire Fukushame. Fukushame. Il Giappone perduto, che è un documentario di produzione italiana, coproduzione Italia-Giappone, diretto da Alessandro Tesei, che mi sembra di aver visto che verrà proiettato anche sulla piattaforma di My Movies Live, insomma. Quindi, sì, solo se mercoledì. Siete interessati? Sì, solo mercoledì. Perché domani? Sì. Ah, vabbè, quindi non lo vedrete mai, ragazzi, perché non editerò mai entro domani. Già. Lo recupererete su altri lidi. E niente, non lo so, ragazzi, di che altro vogliamo parlare? È che tra due settimane sarà un casino. Tra due settimane sarà un casino perché c'è ancora più roba. Cioè no. Looper, I Miserabili, Fast End. Sì, sì. Impossible. E poi esce un film che volevo vedere, ma tanto non uscirà mai, Captive di Brillante Mendoza, che non so se è lo stesso che ha presentato a Venezia, mi sa di sì, quel Tai Womb, ah no, con Isabella Fett, quindi un'altra cosa, vabbè. No, il Impossible titolo originale di questo è Prey. Comunque un regista interessante. Impossible lo prenoto perché ce l'ho, mi è stato già recapitato, quindi. Ah sì, veramente? Sì. Anche Looper, immagino. No. A me Looper me l'hanno recapitato, sì. Ah, vabbè. Ecco. Non è che chi si becca I Miserabili, oddio. Chi l'ha letto? Oh. Non ho visto il musical, però. Vabbè, ma l'hai letto. Vabbè, comunque se dobbiamo proprio dividere. Vabbè, tanto quello di Mendoza non uscirà, per cui... niente, The Last Stand è un bonus. E allora, vabbè, The Last Stand... Mancano due settimane, comunque. Stati dividendo negli Stati Uniti, eh? Recensioni abbastanza contrastanti. Yeah. E vabbè, ragazzi, allora direi che possiamo concludere qui. No, manca un film. Manca un film. Cercasi amore per la fine del mondo. Ah, vero. Dai, di qualcosa su questo qua. C'è Keira Knightley in una commedia incredibile. E niente, è gradevole, è uscito nel weekend sbagliato, non l'avrà visto nessuno, reperito in DVD, una visione magari la vale, però niente di che. E allora ragazzi, ci sentiamo alla prossima puntata dei Filmbusters, immagino che registreremo già la settimana prossima. Noi comunque vi abbiamo già detto che abbiamo intenzione di fare una diretta della notte degli Oscar, vediamo se la cosa sarà fattibile, insomma se saremo in forma al 24 gennaio per fare una cosa del genere. Fatto sta che mi sembra che già hai chiesto informazioni su come si fa un hangout su YouTube, vero? Sì, no. Dai, partecipate tutti, facciamo una mischia. No, possiamo fare una chat comunque, la chat sì. c'è sempre, quindi non avrete mai voce all'interno di Filmbusters se non tramite il nostro... tramite noi che leggeremo le vostre opinioni e le ignoreremo beatamente. E vabbè, allora ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Fate ciao con la manina anche voi. Ciao. La sto facendo. Salutamo. Non è sonora. Fai la manina sonora.